Focus Economia. Con Simone Spezia. Sono le 17, 7 minuti e 14 secondi. Buonasera gentili ascoltatori, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. È stata anche quella di oggi una giornata piuttosto intensa sui mercati. Ci poniamo ancora delle domande e cercheremo di darvi risposta nella giornata di oggi sui cali pesantissimi che hanno subito ieri i titoli bancari, e vi abbiamo raccontato i tre titoli tra cui Unicredit, Intesa, giù di oltre l'8%, adesso rimbalzano, ma è un rimbalzo relativo rispetto al calo di ieri, un 4% di guadagno per Unicredit e un più 2,6 per Intesa, rimbalzano un po' tutti i bancari, in una giornata moderatamente negativa, meno 0,13% sul un più 0,02% sul FTSE All Share e un più 0,18% sul FTSE MIB, mentre sono in calo tutte le altre piazze finanziarie europee. Parigi perde mezzo punto percentuale e Francoforte anche oggi in lieve guadagno, più 0,06%, ma veramente di pochissimo, mentre perde ancora l'America lo 0,44% sul Dow Jones in questo momento. Quindi cercheremo di far chiarezza ancora una volta sulle banche in una giornata intensa sui mercati, ancora una volta per il mercato, in particolare per quanto riguarda i titoli di Stato, con il famoso spread che ormai tutti hanno iniziato a conoscere, ossia il differenziale, la differenza di rendimento tra il titolo italiano e quello tedesco, che fa da riferimento, che è tornato a crescere. Oggi una nuova asta in Italia con rendimenti in rialzo. Parleremo di questo e non solo, naturalmente. Ci occuperemo anche più avanti nella trasmissione della vicenda di Tirrenia. Ieri si è conclusa la vendita dell'azienda. La CIN, la compagnia italiana di navigazione, si è finalmente aggiudicata Tirrenia. Vedremo di capire anche questo, che cosa comporta dal lato della concorrenza, perché lo ricordiamo, gli acquirenti di Tirrenia sono Grimaldi Group, la Moby di Vincenzo Onorato e le grandi navi veloci SNAV di Gianluigi Aponte. Quindi anche da questo lato c'è qualcosa su cui riflettere. Ascolteremo un'intervista poi, a proposito di trasporti, con l'amministratore delegato di Nuovo Trasporto Viaggiatori, la nuova compagnia per l'alta velocità ferroviaria nata da Luca Cordero di Montezemolo e altri soci, sul accordo firmato con l'assunzione di un migliaio di lavoratori e soprattutto un piano ancora una volta innovativo dal lato del welfare, del cosiddetto welfare aziendale. E poi ci occuperemo di aziende italiane, del loro brand, di come viene percepito a livello globale, a livello mondiale, in questo caso dal lato della sostenibilità ambientale. Naturalmente non ci faremo mancare uno spazio sui conti di Fiat. Iniziamo come sempre dalle notizie in breve di questa giornata. 349-238-6666 per i vostri SMS. Iniziamo dalle materie prime. Con l'oro la corsa non si ferma, siamo ai 1614,43 dollari l'oncia. E quindi è stato ritoccato il record storico di ieri. L'apertura del petrolio a New York è stata in rialzo a 99,7 dollari al barile, quotazione in aumento dello 0,6%, e notizia che vi diamo anche da stamattina nei giornali radio, ma vale la pena ribadirla. La benzina che vola un nuovo record a 1,641 euro, insomma 1,641 centesimi per quanto riguarda la verde, mentre invece per il gasolio il record è a 1,523. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo un po' di notizie, soprattutto quelle che arrivano da Fiat in questo caso. Allora, è salito l'utile netto con Chrysler a 1.237 milioni di euro. Questo per quanto riguarda il secondo trimestre 2011, però ci sono i cosiddetti proventi netti atipici che ammontano ad oltre 1 miliardo di euro, determinati dalla valutazione della quota detenuta in Chrysler che è stata consolidata. I ricavi sono a 13,2 miliardi con Chrysler, dice Marchionne che l'obiettivo di 2 milioni di vendite è completamente raggiungibile per l'azienda americana. Oddio, l'azienda americana, insomma il braccio americano di Fiat. Di Tirrenia vi dicevamo, la compagnia italiana di navigazione, che era l'unica rimasta in gara, si è aggiudicata dunque la Tirrenia, 380 milioni di euro. Nel comunicato si legge: salvaguardando continuità territoriale e livelli occupazionali. Per quanto riguarda il Lodo Mondadori, notizia anche qua, l'avrete già sentita nei nostri giornali radio, la CIR di De Benedetti ha ricevuto da Fininvest il pagamento di 564,2 milioni di euro per la vicenda Lodo Mondadori, questo lo ha reso noto un comunicato della CIR. Naturalmente rimane aperto il tema e lo abbiamo affrontato alcune volte nelle settimane scorse su come De Benedetti alla fine investirà questi soldi, che sono oggettivamente parecchi. Si è parlato di scenari televisivi, di altri scenari editoriali, vedremo se nei prossimi giorni uscirà qualcosa di più e sapremo farvi un quadro e darvi un quadro più completo. Allora, parliamo adesso di qualche successione ai vertici di aziende, iniziando dall'assemblea dei soci di Bologna Fiere, che si è riunita questa mattina, ha rinnovato il consiglio d'amministrazione, nominato all'unanimità Duccio Campagnoli alla guida della società. Lo abbiamo raggiunto e ci ha detto quali saranno le linee direttrici lungo le quali si muoverà. Innanzitutto dobbiamo lavorare con le altre fiere italiane, come abbiamo cominciato a fare, molto di più e in fretta. Tra l'altro questa storia dell'ICE che non c'è più apre un vuoto, io penso assieme agli altri a Milano, a Verona, che a Roma, a Genova, a Rimini, che ci si deve accorgere che la piattaforma Fiere Italiane a questo punto può essere un supporto per partecipare alle grandi manifestazioni estere. Quindi governo da una parte, noi dall'altra, dobbiamo trovare una idea, una proposta. Per quello che riguarda Bologna, io ho enunciato un po' tre cose come priorità. La prima è essere di più ancora una fiera dei nostri distretti produttivi e quindi dell'innovazione industriale. La seconda è che dobbiamo guardare ad una innovazione ulteriore come impresa, perché far fiera significa sempre di più averci non solo spazi da mettere a disposizione, ma servizi, marketing, comunicazione. Insomma, noi dobbiamo dare valore aggiunto alle imprese, no? E terzo, il rapporto con la città. Io punto molto alla idea di innovare ancora il quartiere con il sindaco della città, che ha cominciato anche lui il suo lavoro in queste settimane. Ci stiamo dicendo che l'innovazione del quartiere fieristico deve essere un po' uno dei punti prioritari del progetto strategico nuovo, del piano strategico nuovo per Bologna, che anche la città sta cominciando a discutere. Altri passaggi di testimone: quello al vertice delle cantine Ferrari, uno dei grandi marchi italiani, il presidente Gino Lunelli, che era da oltre 50 anni alla guida del gruppo, passa la mano al nipote Matteo. Si conclude così un ricambio generazionale. Come è interessante quello che è successo ad un colosso dell'abbigliamento sportivo come la Puma, perché la nuova guida della Puma è un 32enne che si chiama Franz Koch e ha sostituito Jochen Zeit, che dopo 18 anni a capo dell'impresa bavarese passa alla casa madre, che è la francese Pinot Printemps Redoute. E l'ultimo cambio al vertice del quale vi diamo conto, più che un cambio al vertice, un vero e proprio passaggio, chissà quanto epocale. George Soros ha deciso di mettere fine alla sua ultra quarantennale carriera di gestore di fondi. Entro fine anno il finanziere restituirà i soldi degli investitori esterni, pari a meno di 1 miliardo di euro, per concentrarsi nelle sole gestioni a favore di se stesso e della sua famiglia. Ed è proprio in qualche modo da qua che iniziamo, dai mercati. Che cosa è successo oggi? E ci riferiamo in particolare ai titoli di Stato, che è tornato ad ampliarsi per poi ridursi di nuovo, il famoso spread, ossia il differenziale di rendimento tra titoli di Stato tedeschi ed italiani. Questa mattina è risalito a 300 punti per poi ripiegare intorno a quota 290. Un BTP italiano, questo vuol dire in sostanza, paga dunque circa il 3% in più di interessi rispetto all'equivalente tedesco. Si paga quindi un maggiore rischio. Giusto per darvi la misura, all'inizio del 2008 la differenza era di appena lo 0,2%. Se il differenziale si mantiene su questi livelli, perché insomma c'è chi dice che l'effetto contagio, il famoso effetto contagio della Grecia, in realtà c'è già, perché se dovesse mantenersi su questi livelli nei prossimi 10 mesi, lo Stato dovrebbe sborsare 20 miliardi di euro in più sotto forma di interessi sul debito circa. E ancora, in mattinata il Ministero del Tesoro ha collocato sul mercato 7 miliardi e mezzo di bot, pagando un interesse del 2,269%, il più alto da quasi 4 anni. All'asta anche 1,5 miliardi di CTZ con scadenza aprile 2013, con rendimenti sopra il 4%, anche qua il livello più alto dal 2008. E a questo arriveremo tra poco, però vogliamo fare un passo indietro e tornare a ieri, e lo abbiamo affrontato, come sapete, con i colleghi di Radio Core Il Sole 24 Ore, poi con un gestore. Invece il tema dei ribassi dei bancari di ieri è da questo che vorrei partire oggi, con Walter Riolfi, collega del Sole 24 Ore, che è in studio con noi. Walter, buonasera. Buonasera. Allora, dacci qualche lume se puoi. Allora, partiamo dalla seduta di oggi, che non è andata nemmeno così male, quantomeno per le banche italiane. È continuato il ribasso sui titoli bancari europei. Si sono salvate solamente le tre maggiori banche italiane, Unicredit, Intesa e Montepaschi. Sì, per l'esattezza lo diamo, adesso il guadagno del 4,41 per Unicredit, del 2,99 per Intesa San Paolo e del 2,5 per il Monte dei Paschi. Mediobanca fa storia a parte, un più 1,46%, il Banco Popolare sale di appena mezzo punto percentuale, insomma, a fronte dei ribassi di ieri naturalmente. Sì, nell'ultima ora tra l'altro sono migliorate le cose in Europa, ma i tre bancari maggiori italiani, le tre banche, avevano quotazioni positive fin dalla mattinata, mentre l'indice europeo era arrivato a perdere fino a quasi il 2% con il crollo delle banche greche, e poi ancora colpite le banche francesi, le banche tedesche come Commerzbank e le banche inglesi, no? Quindi quella che era la strategia degli investitori non speculatori, diciamo investitori internazionali, che poi magari anche questi fanno un pizzico di speculazione che fa parte del gioco, dell'investimento, era quello di vendere, di alleggerire attraverso vari strumenti sui titoli bancari. Quelli italiani sono stati un po' risparmiati, perché difficile capirlo, però probabilmente perché erano stati quelli più tartassati, e quindi come valutazioni relative avevano finito per essere più bassi, e quindi diciamo forse più appetibili rispetto agli altri. In ogni caso oggi si sono un po' attenuate le tensioni di ieri, anche per quanto riguarda lo spread, per quanto riguarda i rendimenti dei titoli di Stato, che di qualche centesimo sono scesi. Poi tutto sommato l'asta forse non è andata neanche così male, c'è stata una reazione emotiva negativa subito dopo l'asta che è durata quasi un'ora e poi i rendimenti sono ritornati a scendere un po' sotto i livelli del giorno prima. Quindi tutto sommato oggi è un giorno in cui le tensioni si sono un po' sopite. Allentate quantomeno. Ecco Walter, però io ti ripeto, ritorno sul tema di ieri perché oggettivamente siamo rimasti abbastanza colpiti, perché alla fine un calo dell'8,2%, dell'8,3% su banche come Intesa, come Unicredit, delle quali abbiamo continuato a dire in questi mesi che l'esposizione verso i paesi più a rischio, insomma, come in particolare la Grecia, era di molto inferiore a quello di altre banche europee, come per esempio le tedesche e le francesi, i cui fondamentali non è che siano così drammatici da far presagire cali di questo livello. C'è chi ha parlato di qualche realizzo, però insomma un realizzo dell'8% è... Ma io non penso che chi abbia venduto, cioè la prevalenza degli investitori che hanno venduto, che sono investitori europei, investitori italiani e poi dopo mezzogiorno, dopo l'una, sono anche investitori americani, no? E sono quasi, la gran parte di questi sono istituzionali, non si tratta di hedge fund, speculatori o roba del genere. Io penso che la presenza degli hedge fund su questi titoli qui sia abbastanza limitata adesso, quasi la sensazione che con le quotazioni così tirate si sia un po' a fine corsa. Ecco, ma non penso che abbiano venduto tanto per i fondamentali, perché con valutazioni del genere si sta presupponendo che queste banche qui, o tanto più le banche italiane, siano sull'orlo del fallimento. Io ho raccontato una storiellina che era dentro nel mio pezzo di un grosso investitore americano che chiedeva al suo broker italiano una SIM e diceva: ma qui in Italia state facendo la corsa agli sportelli, i correntisti sono lì per ritirare i soldi. E questo dice: ma no, guarda che è tutto tranquillo, non succede proprio nulla. Perché talvolta, specialmente negli Stati Uniti, c'è un'immagine, cioè, così un po' distorta del paese, no? C'è quasi la convinzione che siamo sull'orlo del crack, di un fallimento globale. Ecco, chi ha venduto sulle banche, io penso che l'abbia fatto soprattutto Se questa percezione ce l'hanno i grandi investitori, non è per nulla rassicurante, francamente, Walter. Sì, devono, chiaramente qualcuno deve spiegarglielo, non certo noi, perché la stampa o la radio nazionale non arriva di là dall'oceano, però chi è che glielo deve spiegare? Deve spiegare le grandi case di investimento, Goldman Sachs, Morgan Stanley, le quali sono quelle che curano gli interessi e gli scambi dei grandi investitori. Sono loro che danno le informazioni fondamentali o macro sull'Europa, sull'Italia. Quindi sono loro che, penso che lo faranno, non mi pare di vedere un atteggiamento così disperatamente ribassista nei grandi broker internazionali. Il Credit Suisse, vabbè che è europeo, no? Però il Credit Suisse ha una forte presenza negli Stati Uniti. Due giorni fa, venerdì sera, è uscito con un report Buy Italy, comprate i titoli italiani. L'Italia, dice, dei periferici è quello messo meglio di tutti, non crediamo che possa fallire. Le quotazioni del mercato azionario sono scese a livelli talmente bassi per cui l'Italia diventa interessante, no? Ed è il primo messaggio così rassicurante e deciso che abbiamo visto in questi ultimi giorni. Ecco, l'impressione però generale che stiamo avendo guardando le borse in questi giorni è che alla fin fine questo piano europeo per il salvataggio della Grecia, e che doveva essere risolutivo almeno nelle speranze dei vertici europei anche per ragionare sul futuro, anche sugli altri paesi periferici, al mercato non sia piaciuto un granché, o quantomeno il mercato non sia stato un granché convinto da questo piano. Allora, Il piano, noi abbiamo detto che questo piano, commentatori sia della stampa ma anche gli uomini di mercato europei l'hanno giudicato sostanzialmente in maniera positiva, addirittura superiore alle attese. Quando dico europei dico Europa continentale, perché gli inglesi ragionano un po' come gli americani. E in effetti è così, perché per la prima volta abbiamo visto la volontà politica di tutti i governi della zona euro di affrontare l'argomento. Poi ci sono i tempi della politica europea che sono diversi da quelli della politica americana, non sempre, vedendo quello che sta succedendo sul debito, sul tetto al debito americano. Comunque i tempi della politica europea, per una serie di ragioni, sono più lenti e meno lineari, no? Per cui tutto è stato procrastinato a settembre, però si sono date le direttive. Mancano, certo, zone grigie, come verrà dotato, con quali fondi verrà dotato il fondo di salvaguardia, l'ESF, qualche altro scuro sui prestiti, sul salvataggio della Grecia, e il dubbio sopra di tutto che l'unione monetaria è un'unione monetaria e non politica, però qualcosa si è fatto, perché qui c'è in nuce un concetto di quasi di un ministero del tesoro sovranazionale. L'ha detto il presidente della Bundesbank proprio venerdì sera, quando dice: abbiamo trasferito i rischi dai paesi periferici, Grecia, Portogallo, ai paesi core, cioè Germania e Francia, eccetera. Quindi vorrà dire che dovremo anche trasferire ai paesi core un po' di decisioni in materia fiscale, no? Quindi di guide, no? Quindi qualcosa è stato sicuramente fatto. Gli americani hanno bisogno di tempi rapidi, però gli americani sono anche viziati da una situazione particolare. Uno, l'America batte moneta, no? L'Europa è difficile perché è un'unione di stati diversi con realtà diverse, e sono viziati da una Fed che ha quanto avrà versato 2-3 mila miliardi sui mercati in aiuti alle banche, forse anche più di 3 mila miliardi, aiuti alle banche, acquisto di titoli Stato, quindi intervenendo e condizionando il mercato, beh, molto molto peggio di quanto non abbia mai abbia fatto la BCE, che ha comunque strumenti limitati, no? Quindi la severità invocata dagli americani, vista da questo punto di vista qui, fa un po' ridere, perché sono 3 anni che i mercati finanziari americani sono drogati dalla Federal Reserve, con tassi a zero e con iniezioni di liquidità enormi. Va bene, quindi la sostanza è questa, che tocca trovare qualcuno che convinca gli investitori americani che la situazione non è così drammatica. Di certo non lo potrà fare o non lo ha fatto Anders Lipstock, membro estone del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea, il quale ha testé dichiarato che la situazione d'Italia e Spagna si è aggravata. Comunque, vedremo che cosa succederà. Grazie nel frattempo a Walter Riolfi del Sole 24 Ore. Buonasera, Walter. Buonasera, grazie a voi. Adesso noi ci prendiamo una breve pausa e poi ci ritroviamo per parlare invece più puramente della giornata di borsa. Le 17:33 minuti e 23 secondi, di nuovo buonasera da Simone Spezia, siamo al momento dei mercati. Allora, giornata di borsa decisamente particolare, non fosse altro per quello che c'era oggi davanti a Piazza Affari, dove ci sono gli allevatori della Lombardia, del Veneto, dell'Emilia Romagna, del Piemonte, della Toscana, delle Marche, del Friuli, hanno portato i maiali a razzolare in Piazza Affari. Questo per parlare dei costi dell'alimentazione degli animali, i migliaia di allevamenti messi in ginocchio e la vera salumeria made in Italy. Insomma, una scena, deve essere stata una scena interessante, tra i maiali che razzolavano e il dito di Cattelan che campeggia in mezzo a Piazza Affari. Andrea Fontana di Radio Cuore, il Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera Simone. Allora, giornata direi senza infamia e senza lode, no? Beh, direi di sì. Diciamo che ieri le banche, che erano state il principale motivo per il calo di Piazza Affari, oggi si sono rivelate invece la nota positiva, con il rimbalzo e il recupero che ha permesso a Piazza Affari di essere la migliore in Europa, con un rialzo dello 0,3% circa, mentre le altre hanno un po' più faticato, si sono mosse intorno alla parità, anche perché gli occhi e le orecchie sono indirizzate verso oltreoceano, cioè verso Wall Street e verso la situazione del debito USA. In Wall Street è negativa, e oggi invece, per quanto riguarda temi strettamente europei, male tecnologici auto, ed è per questo che Parigi, che è particolarmente esposta su questi due settori, è stata la peggiore, ha perso lo 0,7. Allora, partirei da quello che è decisamente un caso sul FTSE MIB, poi, visto che ce lo chiedete via SMS, naturalmente parleremo di Fiat, insomma è abbastanza ovvio, sono stati diffusi i conti oggi, ne parleremo adesso in termini di mercato, e poi invece affronteremo tra poco il tema vero e proprio dei conti di Fiat con il collega del Sole 24 Ore, Andrea Malan. Il caso però mi sembra sicuramente ST Microelectronics, un meno 11,5%. Sì, veramente un tonfo consistente per la società tecnologica italo-francese, che dopo la pubblicazione della trimestrale, con un utile del secondo trimestre inferiore alle previsioni, un utile che ha registrato 420 milioni di dollari, è comunque cresciuto il 18%, ma il mercato si attendeva un risultato maggiore, ha aperto in calo il 9%, ha chiuso a meno 11,5%, come tu ricordavi, ben al di sotto di quota 6 euro. È chiaro che abbiamo un mercato molto nervoso, dopo lo vedremo anche per Fiat nello specifico. È un mercato tendenzialmente ribassista, dove appena vengono mancati o non sorprendono in positivo i risultati e quelle che sono le aspettative industriali, si è penalizzati in maniera molto forte, altrimenti non si spiegherebbe una performance del genere per ST. Naturalmente, invece si spiega un po' di più quella di Ansaldo, il calo del 5-15%? Beh, certamente per quanto riguarda Ansaldo c'è stato un taglio di quelle che sono le indicazioni di fine anno, sulla base anche qui di una flessione dell'utile invece nel primo semestre, che è stata del 4% a 32 milioni, quindi le indicazioni di fine anno hanno pesato, quindi sicuramente diciamo una performance più diciamo leggibile e anche che è possibile legare ai risultati rispetto a quella di ST. E veniamo dunque a Fiat. Il calo per SPA è del 4,46%, per Fiat Industrial il calo è del 2,85%, ieri c'era stata la semestrale di Industrial, il titolo aveva reagito bene, oggi probabilmente segue SPA appunto, no? Beh, certamente Industria si è tenuta sulla parità per la gran parte della seduta, poi effettivamente è stata trainata al ribasso dall'andamento di Fiat SPA dopo la pubblicazione dei conti. Anche qui un mercato molto molto nervoso, molto sotto pressione, è vero che il settore auto è andato male in tutta la giornata ed è stato il peggiore in Europa, ha perso il 2,1% l'indice europeo del settore auto, ma un 4,5% di Fiat a fronte di una trimestrale invece superiore all'attesa è davvero è inspiegabile. Qualche analista effettivamente fa notare che le indicazioni di fine anno per quanto riguarda l'indebitamento sono un po' superiori a quello che ci si aspettava, cioè tra 5 e 5,5 miliardi a fine anno per il gruppo Fiat SPA, però certamente è un'indicazione che diciamo non può un elemento come questo, per quanto importante, spiegare un meno 4,5%. La tendenza è ribassista e quando non si centrano i target o quando ci sono alcuni elementi che fanno crescere i dubbi nel mercato, il mercato penalizza molto fortemente. Sì, tant'è vero che anche Pirelli va giù del 3,66%, giù anche Finmeccanica del 3,81% e Pirelli del 3,66%. Domani tra l'altro ci sono i conti, le attese sono piuttosto positive, no? Sì, per quanto riguarda Pirelli certamente, ieri una buona performance seguita all'annuncio delle nuove evoluzioni, diciamo così, del joint venture in Russia dove il gruppo si sta sviluppando. Il semestre è atteso positivo perché le indicazioni che sono arrivate fino a questo momento sono di una domanda di pneumatici piuttosto sostenuta, però il mercato si è comunque posizionato insieme al settore auto in maniera fortemente ribassista, meno 3,7%, l'hai detto tu. Allora, questo per quanto riguarda Pirelli. Restando sui titoli in ribasso, c'è Mediaset che cede un 2,6%, qua 2,2% per essere esatti, perché qua ha staccato l'assegnone di cui dicevamo in apertura. Sì, la signora l'ha staccato Fininvest, che è il primo l'azionista di controllo di Mediaset, quindi diciamo c'è certamente un aspetto diciamo negativo, sì. Dall'altro canto Circa è incassato, invece l'assegno ha guadagnato quasi 564 milioni, esatto, compresi appunto gli interessi e le spese legali, ma diciamo che per Mediaset c'è anche un certo malumore, perché qui si va effettivamente a fine settimana, cioè giovedì, verso la presentazione di una semestrale che non dovrebbe essere troppo positiva, perché la raccolta pubblicitaria è già stato preannunciato alla società della prima parte dell'anno, non è affatto positiva, non è diciamo in linea con le indicazioni. È anche vero che è attesa questo matrimonio tra una parte di Mediaset e DMT nel settore delle torri broadcasting, le torri per appunto il segnale televisivo, ma insomma le attese sono soprattutto, gli occhi sono soprattutto sulla pubblicità. Temo di esserti andato sopra con la voce, quanto ha fatto CIR? CIR più 0,8%. Allora, delle banche già accennavamo qualcosina, recuperano, i cali di ieri sono stati impressionanti, Unicredit più 4,41%, Intesa San Paolo più 3,11%, Monte dei Paschi più 2,5%, in realtà non un granché, Banco Popolare più 0,77%, non è stato questo un vero e proprio rimbalzo. Sì, non un recupero prepotente, però senz'altro insomma una ricopertura, un'attenzione verso i titoli positiva dopo l'andamento di ieri, anche se insomma Unicredit ha fatto un più 4,4 che certamente è un'ottima performance. Certamente sono titoli che viaggiano a valori minimi o giù di lì, per cui insomma non devono sorprendere neppure ricoperture di questo tipo. Allora, bene anche Tenaris più 1,86%, Mediobanca lo si diceva prima più 1,46%, Lottomatica più 1,36%, positiva tra l'altro oggi Luxottica più 0,76%. Sì, per quanto riguarda il settore del lusso in generale c'è stata una certa attenzione, Luxottica ha pubblicato ieri risultati trimestrali record che sono piaciuti al mercato, anche se poi nel finale della seduta il titolo ha un po' ripiegato più 0,7%, mentre aveva guadagnato anche oltre il 2% durante la seduta. In attesa dei conti del 28 di luglio è andata molto bene anche l'Automatica, mentre la gran parte invece delle performance positive del listino, più positive diciamo del listino del FTSE MIB, sono dei titoli finanziari. Vediamo che anche gli assicurativi, Fondiari Assai Generali o il settore del risparmio gestito come Azimut hanno guadagnato in maniera significativa. Sì, esattamente, Azimut più 1,12%, Fondiaria più 0,92%, Generali più 0,8%, del Banco Popolare dicevamo, da segnalare anche Diasorim più 0,76%, Autogrill più 0,7%, Terna poco più di mezzo punto percentuale di guadagno, del lusso dicevamo Tosa ha guadagnato lo 0,47%, Campari lo 0,25%, Parmalat lo 0,15%, Enel Green Power lo 0,11%, e qua iniziamo ad essere a ridosso della parità, comprese appunto Saipem, UbiBanca, Bulgari, Enel, Telecom Italia, giù anche Mediolanum, ma 2A, Snam, Rete Gas di poco meno di mezzo punto percentuale tutti quanti, Eni dello 0,63%, Atlantia dello 0,67%, Impregilo dello 0,9%, Exor dell'1,04%, Prismian dell'1,37%, la Popolare di Milano di un punto 0,5% e Buzzi Unicem dell'1,73. Degli altri titoli vi abbiamo detto, l'euro quota 1,44,9 contro dollaro. Un ringraziamento ad Andrea Fontana di Radio Cor, Il Sole 24 Ore. Buonasera Andrea. Buonasera a te Simone. Allora, adesso noi abbiamo una pausa per la viabilità, poi torneremo in qualche modo a parlare di mercati, lo faremo con lo speciale risparmio di domani del Sole 24 Ore, vedremo di capire cosa troveremo oggi domani sul giornale, ma anche con i conti Fiat, come vi abbiamo annunciato, vedremo di capire che cosa è emerso da questi conti, se ci sono già dichiarazioni di Marchionne e come sta reagendo chi ha assistito alla presentazione, se questa presentazione c'è già stata, subito dopo la viabilità. Ed eccoci di nuovo in diretta alle 17:46. Siamo con Nicola Borzi, collega del Sole 24 Ore. Nicola, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, lo abbiamo raccontato fin dall'inizio, sono giorni che i risparmiatori sono piuttosto disorientati rispetto a quello che sta succedendo. Abbiamo citato un caso su tutti perché ci è capitato ieri, la pioggia di vendite che è arrivata sulle banche, cali intorno all'8%. Che cosa offrite come orientamento domani? Ma il Sole 24 Ore da domani e per tutta l'estate offrirà 4 pagine dedicate ai nostri lettori con un'ottica molto particolare di servizio. 2 pagine di risparmio famiglia a cura della redazione di Plus 24 che ogni giorno per tutta l'estate faranno il punto sugli strumenti finanziari, sulla loro convenienza, sulla loro necessità per determinati tipi di risparmiatori e per altri no. E all'interno di queste pagine anche un focus sui portafogli dei risparmiatori, sia di coloro che hanno delle piccole disponibilità che di coloro che ne hanno di grandi, come anche di coloro che si trovano poi in realtà alle prese col debito. Quindi cosa farete? Qualche simulazione? Faremo delle simulazioni di portafoglio e ogni giorno chiederemo ai lettori, anche in forma anonima, di comunicarci quali sono le loro reali situazioni in termini di componenti del nucleo familiare, reddito disponibile, ricchezza accumulata, quali sono gli obiettivi che si pongono per il risparmio e poi forniremo gratuitamente attraverso gli esperti del Sole 24 Ore le risposte per cercare di ottimizzare il risparmio. Invece sul fronte della manovra finanziaria, la redazione di norme e tributi del Sole 24 Ore per tutta l'estate produrrà ogni giorno 2 pagine dedicate ai professionisti e a tutte le categorie che si intersecano con le novità legislative per leggere nel dettaglio, capire e utilizzare al meglio la manovra. Grazie a Nicola Borzi del Sole 24 Ore, questo è tutto quello che troverete, e non solo questo naturalmente, in realtà non è tutto quello che troverete sul quotidiano, ma una parte di quello che troverete e che ci interessa direttamente vista la situazione. Noi adesso cambiamo argomento e come annunciato e come richiesto dai vostri sms ci occupiamo dei conti di Fiat. Allora, un più 30% per i ricavi del trimestre di Chrysler, 507 milioni di utile operativo. Tutto questo è stato presentato nella sede brasiliana della Fiat alla periferia di Belo Horizonte, dove sono stati appunto diffusi i risultati di Fiat S.p.A. per il secondo trimestre e la prima metà del 2011. Ieri i dati di Fiat Industria. Siamo con Andrea Malan del Sole 24 Ore. Andrea, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, emergiamo quindi da una 2 giorni di risultati di Fiat e ti chiediamo di tirare un po' le somme. Beh, è abbastanza difficile perché come avete visto la reazione del mercato, meno 4,5% è stata abbastanza netta e derivante probabilmente più che da questi numeri, un utile di gestione ordinaria che è anzi leggermente superiore alle attese degli analisti, derivante dalla crescita del debito. Il debito è salito a 3 miliardi e 4 a fine giugno e Fiat prevede un ammontare tra i 5 e i 5 miliardi e mezzo per fine anno, cioè un consumo di cassa, come si dice, di quasi 2 miliardi di euro nella seconda metà dell'anno. È su questo numero che si sono appuntate le paure degli analisti e quindi anche degli investitori che hanno preferito vendere. Diciamo che di questi tempi è comprensibile che il tema del questi tempi in cui sui mercati il tema dell'indebitamento è sovrano, può essere comprensibile. Toccherà a Sergio Marchionne nella conference call con gli analisti che inizia tra 10 minuti sicuramente spiegare meglio i motivi di questo andamento. Uno dei motivi è già noto, perché la conference call di Chrysler c'è già stata. Chrysler stessa, che oramai è consolidata, come avete detto, avrà un consumo di cassa nella seconda metà dell'anno dovuto a un aumento degli investimenti e a anche un lieve effetto derivante dal capitale circolante. Se lo stesso varrà per Fiat, e può darsi che sia così, visto che anche Fiat ha investito abbastanza poco nella prima metà dell'anno e i mercati dell'auto, soprattutto in Europa, non stanno andando benissimo, ciò spiegherebbe l'aumento dell'indebitamento che preoccupa gli analisti. Ricordiamo però che complessivamente le due aziende, Fiat più Chrysler, hanno a disposizione un cuscino di liquidità che era di oltre 19 miliardi di euro a fine giugno e che è salito ancora con l'emissione di un bond nel corso del mese di luglio, una liquidità che Marchionne sa essere quasi eccessiva rispetto alle esigenze del business giorno per giorno, ma che è legata a due fattori: una, alla necessità di tranquillizzare gli investitori, e due, all'ipotesi che entro 12-18 mesi Fiat acquisti anche la parte residua di Chrysler, che ricordiamo è circa un 41%, che è ancora in mano al fondo sanitario dei sindacati americani. Allora, rapidamente un altro paio di aspetti, Andrea. Allora, quest'utile netto che sale, ma un utile netto a 1.237 milioni di euro, dove però c'è una, quella che possiamo definire una posta straordinaria, proventi netti atipici vengono definiti, che di fatto è il consolidamento di Chrysler. Esatto, in due parole, la quota Chrysler che Fiat ha, che è del 53% attualmente, è stata pagata solo per una piccola parte. Fiat ha ottenuto finora il 30% e avrà un altro 5% a fine anno gratis in cambio di trasferimento di tecnologie, ma sempre sborso monetario. Questa quota, che era iscritta a bilancio a zero, viene rivalutata nel momento in cui Chrysler viene consolidata ed è stata valutata all'ammontare, diciamo al prezzo unitario che Fiat ha pagato al tesoro per la sua quota acquistata a maggio. Di qui l'impatto, diciamo la plusvalenza che in realtà è di 2 miliardi di euro, che è in parte compensata da minusvalenze legate a svalutazioni di attività Fiat. Allora, bene, la Ferrari, 589 milioni di ricavi nel trimestre, un più 20,4%, utile della gestione ordinaria di 82 milioni di euro, e c'è anche un rialzo dei target, non per Ferrari intendo, per il gruppo. Il rialzo dei target è dovuto essenzialmente al fatto che Chrysler viene consolidata, quindi ovviamente il passaggio dei target di ricavi da 37 a 58 miliardi di euro o dell'utile ordinario da circa 1 miliardo a 2 miliardi e 1 è legato al fatto che Fiat nell'intero anno potrà per 7 mesi contare sui risultati di Chrysler. Quindi sono numeri che da questo punto di vista sono difficilmente confrontabili, anche se confermano, per esempio, appunto l'utile ordinario di 2,1 miliardi e il netto di 1,7, confermano che comunque una ripresa di Chrysler c'è stata, nettamente significativa. Chrysler non guadagna ancora come le rivali General Motors e Ford, ma è tornata in nero, anche se anch'essa questo trimestre ha chiuso con un lieve passivo dovuto alle minusvalenze sulla restituzione dei debiti ai governi americano e canadese. Ma diciamo che dal 1 luglio in poi le due aziende sono appunto con un azionariato oramai stabilizzato e Marchionne potrà dedicarsi interamente alla loro integrazione. A questo proposito faccio un'ultima osservazione: oggi ha già detto il manager che la famosa lista dei 25 dirigenti che guideranno il gruppo non verrà comunicata oggi, ma probabilmente entro qualche giorno. Grazie Andrea Valanda, il Sole 24 Ore, buonasera. Arrivederci. Noi dalle auto passiamo a parlare di treni. Nuovo trasporto viaggiatori che la società presieduta da Luca Cordero di Montezemolo, che a fine anno sarà concorrente di Ferrovie dello Stato sull'alta velocità, ha firmato l'accordo per il contratto collettivo di lavoro. Riguarderà 1083 addetti. Cessa a questo punto l'applicazione da parte di NTV del contratto del commercio, ma soprattutto vengono introdotte delle innovazioni dal lato del cosiddetto welfare aziendale. Dunque sentiamo l'intervista realizzata dal nostro Andrea Viali all'amministratore delegato della società Giuseppe Sciarrone. Noi abbiamo 1000 dipendenti, i quali hanno diritto ad avere un adeguato contratto di lavoro, quindi è sempre stato uno dei tasselli del nostro progetto, un moderno e adeguato contratto di lavoro. Ce l'abbiamo fatta dopo 15 mesi di intenso lavoro con le organizzazioni sindacali. Nuovo mercato, nuovo contratto. Nuovo scenario, alta velocità, liberalizzazione, treni moderni, nuova organizzazione del lavoro. Abbiamo fatto un contratto che ha 3 capisaldi, una produttività commisurata alle caratteristiche dell'alta velocità, tecnologicamente molto più avanzate, un sistema retributivo premiante, migliori risultati all'azienda, maggiore sarà la retribuzione dei nostri dipendenti e infine una salvaguardia del benessere dei nostri lavoratori attraverso un sistema integrativo, pensionistico e sanitario. Le novità riguardano anche l'occupazione e la formazione, avete deciso di puntare molto sui giovani. Tutti i giovani selezionati con criteri meritocratici, 1 migliaio di giovani che entreranno a tempo indeterminato nella nostra azienda dopo una selezione, ripeto, dura, meritocratica e un periodo di formazione nelle nostre scuole adeguato a dargli loro un elevato livello di professionalità. Voi contate di partire con il servizio entro la fine dell'anno. Ecco, l'incidente alla stazione Tiburtina di Roma vi preoccupa? Ci preoccupa perché è stato un incidente grave che ha impatto sulla capacità dell'infrastruttura ferroviaria sull'asse principale del paese. Noi non facciamo previsioni, in questa situazione come tutti si lavora giorno per giorno, però siamo fiduciosi e confidenti sulla capacità e sull'impegno della rete ferroviaria italiana di risolvere al più presto questa situazione. Così dunque Giuseppe Sciarrone, amministratore delegato di NTV, la Nuovo Trasporto Viaggiatori, al microfono di Andrea Viali. Adesso c'è la pausa per il giornale radio, noi ci ritroviamo subito dopo, parleremo di brand italiani e della loro percezione dal lato dell'ambiente e parleremo poi anche di Tirrenia. Le 18:07:42, di nuovo buonasera da Simone Spezia, gentili ascoltatori. Allora, ci siamo occupati nella prima parte del programma, oltre che di mercati, ci siamo occupati, come avete sentito, di settore auto con i conti di Fiat e di trasporto treni con il contratto firmato da NTV, la Nuovo Trasporto Viaggiatori. Tra poco andremo a occuparci di ancora di trasporto, ossia parleremo della vicenda di Tirrenia che finalmente, che è stata una lunghissima telenovela e alla fine è arrivata a conclusione, si è concluso l'acquisto di Tirrenia. In gara era rimasto solo un concorrente e questo concorrente se l'è acquistata. Ma prima ci vogliamo occupare di marchi italiani. Allora, è stata presentata la prima edizione della classifica dei Best Global Green Brands. Che cos'è? Una classifica che è realizzata insieme a Deloitte e da Interbrand, combina la percezione che i consumatori hanno sulla sostenibilità dei brand considerati e la loro performance calcolata sui dati pubblicamente disponibili. Manfredi Ricca, direttore generale di Interbrand Italia, buonasera. Buonasera. E ne parliamo perché c'è la prima edizione della classifica dei Best Global Green Brands, ossia una classifica che misura tanto la percezione da parte dei consumatori nella cosiddetta sostenibilità ambientale delle aziende, quanto la sostenibilità ambientale vera e propria misurata attraverso una serie di indicatori che sono disponibili. Allora, in questa classifica non c'è, che si compone di 50 aziende a livello globale, non c'è nemmeno un'azienda italiana. Allora, Ricca, è in grado di spiegarci perché? Sì, beh, innanzitutto dobbiamo ricordare che questa classifica trae spunto dalla nostra classifica dei brand globali a più alto valore economico, e nella quale già c'è una certa scarsità di brand italiani. Quanto scarsità? Su che livello? Erano 3 l'anno scorso. Per cui diciamo 3 su 100, e questo evidentemente evidenzia come non sia tanto e semplicemente una questione di approccio all'ambiente quanto di debolezza o scarsa presenza dell'Italia nella classifica dei brand a più alto valore economico. Nel momento in cui siamo andati a fare questa ulteriore classifica, questo studio, anche un brand che aveva le caratteristiche per poter essere considerato facendo parte di un gruppo, e sto parlando di Gucci, che fa parte del gruppo PPR, in questi casi, non solo nel caso di Gucci ma anche di altri brand, dove si fa parte di un gruppo più ampio che presidia quelle che sono le politiche ambientali, evidentemente non si viene considerati come brand. Questo spiega, credo, il motivo per cui si ha questa assenza dei brand italiani. Possiamo saltare alle conclusioni dicendo che ovviamente i brand italiani non sono Quindi è un difetto di percezione complessivo, non è solamente un difetto di percezione dal lato ambientale. Sì, esattamente, è un difetto di valore economico creato dai brand, nel senso che come Italia abbiamo pochi brand globali che rientrino nel novero dei primi 100, e questa è qualcosa di che si osserva ormai da 11 anni, da quando completiamo questa classifica. Essendo questa classifica basata su quella, evidentemente l'effetto si ripercuote a valle. No, perché ci incuriosiva, tra le altre cose, per esempio il fatto che tra i primi 20 di questa classifica ci sono ben 6 aziende dell'automotive e per esempio non c'è Fiat, che di fatto ha acquisito Chrysler praticamente solo a causa della capacità di creare motori più sostenibili dal punto di vista ambientale. Questo è corretto. Allora, l'assenza di Fiat è spiegata dal fatto che Fiat è sempre stata assente sino a questo momento dalla classifica globale, in quanto non può dirsi un brand globale. Vedremo poi quali saranno gli sviluppi, ma ad oggi non si può sostenere che Fiat sia presente nelle 4 macro regioni dove occorre essere presenti per potersi dire brand globali. Quindi di nuovo qui, anche qui nessun giudizio specifico su Fiat, ma semplicemente una questione di requisiti. Per quanto riguarda invece il settore automotive in senso più ampio, si tratta di uno dei settori che ha investito di più nel riposizionarsi complessivamente come settore amico dell'ambiente, proprio in quanto in passato è sempre stato additato invece come uno dei maggiori responsabili del deterioramento dell'ambiente. Questo evidentemente ha portato non solo a degli elementi di fatto, per cui c'è un investimento oggettivo in ricerche e in politiche che sono tese a ridurre l'impatto ambientale, ma anche nella percezione, perché come vediamo una gran parte degli investimenti in comunicazione recenti di questi player è indirizzato proprio a creare una percezione green, se così possiamo chiamarla. Ci faccia capire una cosa più in generale, non riguarda solamente questa classifica dei best global green brands, ma anche quella più generale del posizionamento economico. Queste tre aziende presenti tra le prime 100 e quindi quelle che a questo punto possiamo definire globali, perché presenti in queste quattro macro aree mondiali delle quali voi parlate, quali sono? Sono quelle che erano presenti nella scorsa classifica ed erano Ferrari, Gucci e Armani. Semplicemente queste, ma e ce ne sono altre che sono state prese in considerazione perché presenti nelle quattro macro aree? Insomma, a me sembra abbastanza strano che ci siano solamente tre aziende italiane presenti in tutto il pianeta. No, sono tre aziende presenti fra le prime 100 per valore economico creato. Questo ha diverse spiegazioni. Innanzitutto che non siamo presenti con dei brand globali in un discreto numero di settori che invece dominano la classifica. Pensiamo per esempio alla tecnologia, dove non abbiamo dei brand globali, e questo è un dato oggettivo. Un altro elemento è dato dal fatto della dimensione relativamente piccola delle aziende italiane, che a sua volta conseguenze anche del tipo di mercato azionario che abbiamo, e quindi la scarsa possibilità di avere una magnitudo che è sufficiente a entrare in classifica. Nel considerare il valore dei brand, noi consideriamo evidentemente non soltanto il ruolo che il brand ha nel creare valore economico, ma anche l'ampiezza e la grandezza dell'azienda, perché ovviamente un brand crea maggior valore economico nel momento in cui è parte ed è peraltro motore di un'azienda di dimensioni cospicue. Sì, lei citava l'elettronica, c'è anche per esempio il settore dei servizi finanziari, insomma nella vostra classifica ci sono Santander, AXA, HSBC, Barclays, Citi, naturalmente dal lato dei servizi finanziari di italiano a livello globale non c'è molto. Esattamente, lì è un fatto invece di presenza globale, correttamente, così come nell'ambito automotive, Fiat, per quanto dimensionalmente possa essere, diciamo, nell'ambito di questi brand, fino a questo momento di fatto non è stato un brand globale, in quanto non presente come marchio Fiat in ambiti come gli Stati Uniti, o comunque pochissimo presente, o addirittura al Far East. Evidentemente questo spiega sia la globalità sia la grandezza, come mai abbiamo una presenza così ridotta, peraltro molto concentrata nel settore del lusso, e questo non stupisce evidentemente. Naturalmente. Grazie a Manfredi Ricca, direttore generale di Interbrand Italia, per essere stato con noi. Buonasera. Grazie molto a voi e buonasera. Allora, ci chiedete di Ferrero, non sappiamo, insomma, nel senso all'interno di questa classifica tra queste prime 100 non c'è, né tra i green brands, ossia quelli con un certo grado di sostenibilità ambientale, né tra i primi 100, tra le prime 100 in assoluto per creazione di valore economico. Insomma, questo non è che vuol dire che la Ferrero non sia un'azienda globale, magari non è presente in una delle quattro macro aree prese in considerazione. Allora, adesso c'è la pausa per la viabilità e poi subito dopo ci occuperemo della vicenda Tirrenia. Le 18 minuti e 15 secondi. Allora, torniamo ad una vicenda della quale ci siamo occupati tantissimo nei mesi scorsi, poi l'abbiamo persa di vista per un attimo ed era una vicenda che stava diventando paradossale, come spesso accade per certe vicende italiane. E la vicenda è quella della compagnia di navigazione Tirrenia, che era pubblica ed era da privatizzare, che era controllata al 100% da Fintecna e che aveva debiti per 760 milioni di euro. E ci ha accompagnato spesso in questi appuntamenti che riguardavano Tirrenia il collega del Sole 24 Ore, Raul De Forcade. Raul, buonasera. Buonasera. Allora, finalmente ci siamo, forse ne siamo usciti, insomma, Tirrenia è privata. Sembra di sì, ovviamente ancora c'è un passaggio da fare che è il passaggio classico quando ci sono operazioni di questo tipo, che è il passaggio dell'antitrust. In questo caso l'antitrust non è quello italiano ma è quello europeo, che dovrà dare il via libera. Questo via libera si attende fra la metà di settembre e i primi di ottobre, però insomma diciamo che il Tirrenia allo stato attuale è passato ai privati. Allora, chi sono questi privati? I privati sono, diciamo, i tre più grossi armatori italiani, ma anche fra i più grossi europei, diciamo, parlando del comparto RoRo, insomma, dei traghetti, cioè Gianluigi Aponte, che attualmente controlla SNAV, la napoletana SNAV e i grandi navi veloci, che si sono recentemente fusi in una joint venture, e poi c'è Vincenzo Norato alla guida di Mobi e infine Manuel Grimaldi alla guida del gruppo Grimaldi di Napoli, insomma, che è appunto un gruppo internazionale, così come Aponte, che oltre ad avere i traghetti poi ha anche il secondo operatore al mondo per quanto riguarda il traffico container. Allora, Raul, innanzitutto dacci qualche termine finanziario dell'operazione, perché noi eravamo rimasti a quei dati che si dicevano poco fa, debiti per 760 milioni. Sappiamo che il costo, il prezzo pagato da questi tre armatori che si sono messi insieme in una compagnia che si chiama Compagnia Italiana di Navigazione, acronimo CIN, il prezzo pagato è stato i 380 milioni di euro. Dal lato dei debiti come si comporteranno? Beh, allora a questo punto loro non avranno diciamo il problema di pagare dal punto di vista di debiti della società che ha anche debiti, diciamo, nei confronti delle ex controllate, le società regionali. Di quei debiti sono ancora in sospeso, avrebbe dovuto farsene carico lo Stato, ora non è chiaro appunto che chi se ne deve fare carico, probabilmente quelli nei confronti delle ex controllate regionali, sono quelli che rallentano la privatizzazione anche di queste, la questione dei debiti. Dal punto di vista finanziario però l'operazione che fa CIN è questa: loro hanno pagato, anzi non hanno ancora pagato, pagheranno nel momento in cui l'operazione andrà al closing 380 milioni di euro, ma non saranno pagati tutti cash, ci sarà una parte di questi 380 milioni, circa 200 milioni, che saranno versati dalla compagnia, in parte dalla compagnia, in parte dalle banche, che sono Unicredit e IMI, che sono gli advisor finanziari, diciamo, di questa operazione. In parte la compagnia sarà, gli altri 180 milioni che mancano per arrivare ai 380 milioni saranno versati in tre rate che andranno di pari passo con il versamento delle convenzioni da parte dello Stato nei confronti di Tirrenia, perché non dobbiamo dimenticare che Tirrenia, svolgendo un servizio pubblico nei confronti delle rotte degli abitanti, soprattutto della Sardegna, comunque delle isole italiane, gode di una convenzione di 72 milioni l'anno per 8 anni da parte dello Stato. Ecco. Allora, ma c'è qualche vincolo da questo punto di vista all'acquisto? Perché nei mesi scorsi abbiamo parlato molte volte, soprattutto i sindacati hanno paventato questo rischio spezzatino di Tirrenia. C'è qualche vincolo per cui questa compagnia italiana di navigazione non può, una volta che ha incamerato Tirrenia, spezzarla in tre e dividersela tra appunto i tre armatori che l'hanno acquistata? No, l'accordo è appunto, riguarda appunto queste convenzioni. L'accordo con le convenzioni è stipulabile solo, diciamo, nell'eventualità che appunto Tirrenia resti unita, tanto più che l'operazione è stata fatta in questo modo ed è stata voluta dal governo in questo modo proprio per salvaguardare i 1400 dipendenti di Tirrenia che con uno spezzatino certamente correvano maggiori rischi di quanto invece ne corrano con l'operazione strutturata in questo modo. Cin sarà obbligata appunto a prendere Tirrenia, a prendere il marchio Tirrenia e ovviamente la compagnia così com'è, certamente potrà ristrutturare la flotta, non potrà licenziare i 1400 dipendenti almeno per 2 anni, ma dicono poi i 3 armatori che non hanno nessuna intenzione di farlo nemmeno successivamente, perché il personale di Tirrenia non è sovradimensionato, quindi più o meno potrà essere utilizzato in tutto. Quindi, Raul, scusa una cosa, allora non è sovradimensionato il personale di Tirrenia, però un po' sovrappagato lo è, nel senso che da quel che risulta a noi, dai dati che avevamo e che hai scritto anche tu in alcuni casi sul giornale, il costo del lavoro è superiore del 25% a quello rispetto a quello delle compagnie private. C'è una qualche intenzione di fare qualche intervento da questo lato oppure no, che tu sappia? Ecco, io adesso non saprei dire nel particolare, ma certamente prima di chiudere del closing dell'operazione ci vuole un accordo sindacale fra CIN e appunto e vedremo quale sarà il frutto di questo accordo, fermo restando però che appunto CIN si è impegnata, come dire, a mantenere i livelli occupazionali. Ecco, ti porterei all'altro tema che hai già sfiorato tu poco fa parlando della necessità del via libera dell'antitrust europeo, ed è il tema molto terra terra, ce ne scuseranno gli ascoltatori o forse ne sono contenti, del costo dei biglietti, insomma il fatto che il costo dei biglietti dei traghetti, il fatto che 3 grandi armatori incamerino la grande compagnia pubblica può comportare dei rischi da questo lato, visto peraltro che è aperta un'indagine antitrust sul tema dei rincari dei biglietti soprattutto per la Sardegna. Questo è possibile, però bisogna vedere anche, diciamo, un lato positivo dell'operazione, cioè è chiaro che si può parlare di monopolio, voglio dire, di un'azienda se si parla di grandi gruppi che l'acquisiscono, ma si può anche pensare che in qualche modo l'Italia con l'unione di 3 grandi armatori e con il controllo da parte di questi armatori di una grande compagnia come Tirrenia, insomma, possa avere anche qualche plus maggiore nel settore dei traghetti e del trasporto RoRo, cioè merci attraverso traghetti delle autostrade del mare. Insomma, si sta formando con questa inedita unione, diciamo, di grandi armatori anche un gruppo inedito, come dicevo, a livello italiano, che potrebbe pesare molto di più e molto meglio sul mercato del Mediterraneo e forse non solo del Mediterraneo, visto che Grimaldi ma anche Aponte operano anche al di fuori del Mediterraneo, soprattutto Grimaldi opera al di fuori del Mediterraneo con i traghetti. Certo, la questione dei prezzi esiste, la denuncia c'è stata e un aumento dei prezzi è innegabile nei traghetti verso la Sardegna. Vero è anche però che c'è stata questa grossa crescita del costo del carburante che gli armatori denunciano e sulla quale appunto dicono: noi abbiamo avuto bilanci in rosso per 3 anni dopo la crisi mondiale e ovviamente dovevamo in qualche modo ritoccare i prezzi, se no non andavamo avanti. Certo, chiarissimo Raul, grazie a Raul De Forcade del Sole 24 Ore per essere stato con noi e buonasera. Buonasera. E naturalmente c'è chi obietterà a queste parole del collega, questa è la versione degli armatori, vedremo naturalmente che cosa deciderà e che cosa dirà l'antitrust su questi temi. Un ringraziamento a Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in redazione, Fabio Cantadori in regia, un ringraziamento a tutti a voi per l'ascolto da Simone Spezia, ci sentiamo domani dopo il GR delle 17. Radio 24, la passione si sente.